Quello che ci ha colpito subito e che ci ha in qualche modo così costrette a prendere una posizione su questo racconto è il fatto che intanto non si è parlato da subito, e anzi forse neanche adesso si parla dei fatti di Parma come di un femminicidio, ma si è partiti subito dalla situazione di chi ha ucciso questa donna. Ed è veramente una narrazione che ci preoccupa perché non si prende mai in considerazione, non si racconta mai effettivamente che c'è stata un'uccisione da parte di un uomo, di una donna in quanto donna. E la ricerca costante di una giustificazione e il fatto di giustificare questo tipo di azione sul fatto che questa persona che ha ucciso è una persona in sofferenza perché aveva accudito la moglie e tutto quanto, fa completamente perdere di vista che c'è stata una donna uccisa in quanto tale e che in quella situazione di difficoltà dell'uomo, che quindi aveva difficoltà a prendersi cura o era stanco di prendersi cura della moglie, e la moglie spariva, cioè chi è stata uccisa, la donna che non ha potuto decidere per sé della propria vita, spariva completamente dal racconto e si fa fatica ancora a raccontare, vediamo nella stampa, questa uccisione come un femminicidio. Si va alla ricerca di scusanti, di motivazioni, di giustificazioni, ma come diciamo noi la violenza non ha giustificazione, la violenza è una scelta e uccidere una donna è una scelta, perché non ci sono motivi che possano essere sufficienti a giustificare l'uccisione di una donna. Tutto questo è sparito dal racconto della stampa di questi giorni, e peraltro questo tipo di racconto continua anche adesso, nel senso che tutto viene dedicato a chi era, chi ha ucciso e come mai ha ucciso. Quindi la ricerca delle giustificazioni, secondo noi, sono veramente un spostare il focus da quello che è accaduto e dalla gravità di quello che è accaduto. Parlate di estrema sessualizzazione della violenza sulle donne e del fatto che il lavoro di cura spesso viene relegato alla figura femminile. Certo. Rispetto a questi due fatti di cronaca? Nel primo caso direi che è molto evidente, la nostra cultura pensa che il lavoro di cura sia delle donne, no? E quindi le donne devono essere pronte a sopportare, a farsi carico di questo lavoro senza che questo sia un problema per nessuno. Dall'altra parte, quando questo riguarda gli uomini effettivamente spesso non riescono a gestire questa difficoltà, non riescono a gestire il carico di questa cura, e quindi veramente è assurdo che si pensi che sia normale per un uomo non riuscire a dover sostenere questa fatica se non arrivare al gesto estremo, mentre dall'altra parte difficilmente si sente di una donna che non riesce a farsi carico dell'attività di cura. E quindi si cerca sempre di trovare una giustificazione alla violenza come qualcosa di, come dicevamo nel comunicato, come se fosse qualcosa di passionale, e quindi come se le donne anziane o malate non fossero donne ma semplicemente qualcosa, un peso per quell'uomo, una cosa per cui la vita di quell'uomo è limitata. E quindi, come dicevo, si sposta completamente il focus da quello che è il fatto che quell'azione è un'azione violenta, è un'azione contro una donna, perché un uomo non è stato in grado e non è in grado e non ha la cultura per poter far fronte a una situazione, a un lavoro di cura, come invece si chiede normalmente alle donne. E spesso nella stampa, voi scrivete nel comunicato, non viene attribuito all'uccisione di una donna malata che ha un'età superiore ai 70 anni. Quando siamo di fronte a questo tipo di situazioni, il fatto che la donna sia malata, che richieda delle cure particolari, che una donna magari allettata, fa sì che quella donna perda la sua caratteristica di donna, cioè diventa semplicemente una persona genericamente che è allettata, che è malata, cioè non ha più la connotazione di donna, ma diventa una cosa diversa. E quindi ecco che la stampa perde l'idea del femminicidio, soprattutto poi delle persone anziane, no? Anche le donne anziane vengono dimenticate, cioè non esiste il femminicidio di donne anziane, perché se poi magari sono anche malate si porta e si trasporta tutta l'attenzione su chi ha agito violenza e sulle difficoltà di chi ha agito di violenza, perché gli articoli di questi giorni raccontano di un uomo depresso, di un uomo che era in difficoltà perché non sapeva come fare, si era arrabbuiato, ma di quella donna non si dice niente, quella donna sparisce dal racconto e diventa semplicemente un peso per chi ha commesso questa azione violenta, quasi a voler giustificare, a trovare una ragione di giustificazione attenzione in questo. E quindi se sparisce l'idea che la vittima è una donna, se sparisce l'idea che anche uccidere una donna che è malata, ma che non ha dato il proprio consenso a quella uccisa, una donna che è stata uccisa non ha espresso il suo consenso ad essere uccisa, è una donna malata, ma che forse non avrebbe scelto di morire. Quindi questa parte scompare completamente.